The Movie, quando, e ne approfittiamo per salutarlo che purtroppo non è riuscito a raggiungerci, quando condividevi parte del programma con Nicola, col quale ricordo che insomma c'erano un po', non eravate spesso d'accordo sul film del quale stavi parlando, tu davi il tuo parere e spesso lui interveniva e ti contraddiceva in sì, onda. Sì, è stata insomma. Una fase così. C'erano stati un po' di siparietti di divertenti, insomma. Esatto. Ma è un programma che in effetti ha vissuto un po' anche su altri ospiti. Io ricordo una delle puntate che ricordo più volentieri è una che abbiamo fatto insieme a Mauro Bevacqua, che è un oggi direttore di famosa rivista di basket, ma anche lui è un grande appassionato di cinema, e Federico Buffa, che è un personaggio che penso molti conoscano, grande esperto di basket NBA, grande esperto di calcio e di Milan, fra l'altro un grande esperto di cinema, perché è uno che è andato di persona diverse edizioni di fila a vedere il Sundance Film Festival nello Utah. Attenzione. A Park City in gennaio con la neve, e una volta abbiamo fatto questa puntata storica parlando del Sundance, in cui Federico, con il suo piglio inconfondibile, ci ha raccontato tutta una serie di cose. Certo. Ora, per non parlare un quarto d'ora di fila, ma buttarci dentro dei pezzi, allora diciamo, se noi dovessimo fare The Movie oggi e dovessimo parlare di film appena usciti, secondo me, a livello di colonna sonora rock, la cosa più bella sarebbe questo Iron Man, ennesimo film su avventure di personaggi dei comics della Marvel. Iron Man ha questa grande particolarità: il film si conclude con l'omonima canzone dei Black Sabbath, Iron Man, e si apre con un altro grandissimo pezzo storico che, con grande piacere, secondo me possiamo mandare adesso, ed è questa, vabbè, neanche la presentiamo, guarda. Yeah. E dunque abbiamo aperto, diciamo, con il figlio giusto questi vecchi amici, gli ACDC con Back in Black. Allora, io ho sentito un po', ho seguito un po' della nostra cavalcata, la nostra 24 ore conclusiva. Mi son perso purtroppo il pezzo di Eclettica perché, ahimè, avendo una bimba da accudire, quell'ora lì era l'ora del pannolino. Però mi dicono che durante quel pezzo di Eclettica vi siete lanciati non solo nella lettura del libro, che è un po' uno dei pezzi forti, di uno dei colpi che ha nel taschino il nostro Giulio, no? Ma avete anche parlato del vostro film preferito, quindi qui, certo, sconfinando un po' nel territorio. Esatto. Allora riprendiamo il tuo. Assolutamente. Beh, io ho parlato di Goodfellas. Quei bravi ragazzi, per i anglofoni. Esatto, io in realtà ho trovato un fascino pazzesco per tutti quei film. In realtà subito mi portarono a vedere Casino, quindi in realtà abbastanza recente come amore. Infatti l'ho riscoperto in DVD di recente perché al cinema l'ho perso. Sì, infatti anche al cinema non l'avevo visto. Ero andato a vedere Casino però perché iniziavo ad apprezzare la coppia De Niro Pesci, eccetera, avevo visto delle cose vecchie. E poi alla fine decisi, mi hanno detto: guarda che se ti è piaciuto sto film così tanto, ci sono praticamente tutti gli attori che avevano già fatto Quei bravi ragazzi. E poi, certo, da lì ho scoperto di amare questi film, appunto, Scorsese, eccetera, sul discorso mafia un po' all'italiana, un po'... Di cui però il modello inarrivabile, penso, considera ancora come resta Il Padrino. Beh, il Padrino, vabbè, certo, Mox, assolutamente. Ci chiama in ballo. Assolutamente, anche se ho trovato altre belle cose, magari non necessariamente, però vicine, come c'erano volte in America, per esempio, certo, oppure ho trovato questi capolavori pazzeschi, magari simili. Per esempio, a me piacque addirittura anche Il massacro di San Valentino, che insomma alla fine era un po' più, come dire, fatto alla buona, però aveva queste ambientazioni gangster che mi divertono molto. Ma quindi hai messo il pezzo di Joe Pesci, Are You Fucking Talking to Me, quello lì? Sì. Non sapevo. The Campani. What do you mean funny? Esatto. Comunque, allora, io ti posso dire che invece Il Padrino 1 e 2 sono tra i tre film della vita personalmente. Certo, gli altri sono, certo, vabbè, chi ascoltava questa rubrica li conosce già. Certo. L'interpretazione di Marlon Brando che... Sì, senza contare che ovviamente io alle volte, anche se il primo è il più visto e il più conosciuto, la classifica è secondo, primo, terzo. Beh, tieni presente che il secondo è l'unico film, parte seconda, nella storia del cinema ad aver vinto l'Oscar di miglior film. Cioè, certo, per dire, stiamo parlando di un livello piuttosto alto. Certo. Però ecco, quando si parla del Padrino, io raccomando sempre, se avete modo di recuperarlo in DVD, voi guardatevi la scena che fa Marlon Brando muto, cioè senza dire una parola, quando il figlioccio, l'avvocato, gli deve dire che è morto Sonny. E questo glielo dice, e Marlon Brando ha 30 secondi di recitazione muta, ieratica, esatto, cioè quasi immobile, senza, sì, dire una parola, e con quella faccia lì e con quei due movimenti che fa ti spiega cosa vuol dire essere un attore, essere Marlon Brando, e cosa vuol dire poi tutto il resto dei bravi che sono venuti dopo, i bravi ragazzi, però, certo, ragazzi, certo, quello là era un'altra classe. Beh, la superiorità poi... di quella scuola, di quella generazione di attori, di cui appunto Marlon Brando, certo, è una delle punte di diamante, ovviamente. Certo. Che... Sì. E fra l'altro, visto che uno degli scopi del programma, uno degli obiettivi del programma era anche quello di suggerire qualche gioiellino, sì, parlando del filone, mafia, eccetera, certo, eccetera, se non l'avete visto io vi consiglio Fratelli, sì, di Abel Ferrara. Sì, quello sulla morte, sì, del padre. Con Christopher Walken e con... Sì, eccezionale. Un cast di eccezione, e secondo me è un film meraviglioso. Un film degli anni 90, quello lì. Certo, certo. E poi confesso, ora che ne posso parlare, a parte John Landis, Blues Brothers vari, eccetera, Tarantino. Hai una man molto crush per, sì, Tarantino. Esatto. Però, e guarda, io alla faccia di tutti dico che Grindhouse secondo me è un capolavoro. Però a me è piaciuto un metafilm di Grindhouse, l'altra metà un po' così. Scusami, Mox, perdonami un attimo, io credo che Grindhouse sia un capolavoro per il fatto che non bisogna guardare la storia. Cioè è talmente tanto una valanga di citazioni e di cose che cioè io credo di non ricordare un dialogo di Tarantino, anche se a me molto spesso che cazzo vuoi, brutto figlio di puttana, no, va a fare è paradossale perché se film sono zeppi di dialoghi, esatto, però Grindhouse all'inizio è parlatissimo, non fanno altro che parlare. Io il fatto che abbia fatto tutte le inquadrature sbagliate apposta, come nei B-movie anni 60, che si sia messo a graffiare la pellicola apposta per dare quell'effetto lì, che abbia messo gli errori, i bloopers, cioè ambientazione anni 60 ma cellulari. Tocchi di maestria. Esatto. Tocchi di maestria. Che la come si chiama? La stuntman, la protagonista è la stuntman di Uma Thurman in Kill Bill. In, certo, Kill Bill, che la sua amica ha la suoneria di Kill Bill nel cellulare. Cioè io sono tutte cose che mi mandano... Beh, lui è molto fuori, bravo in queste cose qua, no? Nelle citazioni, nelle autocitazioni. Esatto, esatto. Bravo. In quelle cose lì sono stato. Comunque, bene. Approfitterei della competenza di Riccardo per fare un'affermazione che poi lui smentirà oppure confermerà. Tarantino in realtà è fortissimamente ispirato dal cinema italiano, perché qua stiamo parlando molto di cinema americano, ma ricordiamo quanto il cinema italiano degli anni che furono, quindi 30, 40, 50 e 60, fu forse il miglior cinema al mondo, e anche Scorsese è una cosa che afferma. E Tarantino ha preso a piene mani da Bava, per dire, ma anche da moltissimi trash movies o noir movies come, non so, Milano Calibro 9 così. E lo dichiara con un certo anche orgoglio, senza. Ma lui è un amante di questi tre filoni, no? Il gotico horror italiano di Bava, di cui parlava prima Mox, e qui assolutamente, se non l'avete visto, Recuperare la maschera del demonio. È un film bianco e nero con Barbara Steele agli esordi, però strepitoso, e ti mette tutt'oggi una caga, non so se tutt'oggi si può dire in diretta, però a tutt'oggi meraviglioso. Tra l'altro Black Sabbath del 1963, ossia i tre volti della paura, una tre volti della paura, sì. È praticamente un film di Bava che ha ispirato, pare, i ragazzi di Birmingham, che si sono spaventati a vederlo e hanno creato i Black Sabbath, hanno dato il nome alla loro band Black Sabbath. Niente meno. Poi Tarantino, come diceva sempre Mox, è anche amante del filone, Milano spara, la polizia non può difendersi, eccetera, eccetera, quindi Franco Nero, quel poliziottesco proprio dei noantri, diciamo. E poi c'è, comunque, anche lui ha sempre detto di essere un grande sostenitore del filone rosa porno soft, quindi David Fenech, Barbara Boucher, quindi sempre in Italia siamo, sempre spaghetti. Ricordo un'intervista nella quale lui parlava di Barbara Boucher con una venerazione veramente. Ma lui ha cercato di scritturarla per Grindhouse e non ci è riuscito, e ancora adesso conta di farlo prossimamente. Quindi Tarantino è assolutamente uno dei nostri, diciamo, anche da questo punto di vista. E poi vabbè, il cognome, insomma, no, tradisce l'origine, sicuramente l'origine dell'Italia. Insomma. Nelle candidature per i pezzi da mandare oggi, che sarebbero tantissimi, avevo infilato anche un Jailhouse Rock, sigla di chiusura dei Blues Brothers, citati prima da Edo, però la scelta è molto difficile. Allora, per il momento invece abbiamo scelto di mandare come secondo pezzo quello che è stato uno dei piccoli, diciamo, cult di Rockefeller and the Movie, tratto da un film, anche questo, di supereroi, secondo me secondario, che era Spawn. Però il pezzo era molto bello, secondo me, questa atmosfera un po' industrial dei Filter, è un pezzo che ultimamente, secondo me, si sente poco, e quindi almeno un pezzo sentiamo, cioè è Amen, Nice Shot. Vedi tu, dice Derio. Approfittiamo della presenza di queste due illustri guest star, cioè vedi tu, Derio e l'Ariele, per tirare in ballo anche loro sul cinema. No, io devo chiedere scusa perché avrei dovuto presenziare dall'inizio, visto che un po' ciò di cui stai parlando lo sento un po' anche mio, visto che siamo stati compagni di viaggio per diversi anni anche. Ricordo ancora, purtroppo non siamo riusciti a recuperare la sigla che qualcuno ha fatto sparire, però beh, questa è la i soliti sospetti. Fa parte di tutte quelle sigle che non abbiamo più potuto riutilizzare. Esatto, che sono tantissime. Esatto. Però lo ricordo con piacere perché nella carta che si inseriva nel computer, cioè, era scritto proprio Rock FM The Movie con la, con la Z. Beh, io nel calendario del telefono oggi l'ho segnato come The Movie. Allora, e non come The Movie. È giusto così. Noi stiamo parlando un po' dei film che preferiamo. Vi stavo ascoltando sotto. Ah, perdonami, mai notato la maglietta del nostro ospite? Però, una maglietta. Ringraziamo d'epoca, ancora Cristina. Class is not water. Ho come l'impressione che se scendi giù e fai vedere che hai quella maglietta, me la strappano di dosso. Una maglietta con il simbolo storico di Rock FM. Via che scatta l'aneddoto. Queste maglie vennero stampate in occasione del Monza Rock Festival, dove Rock FM aveva un suo stand che è stato il più visitato. Voi direte, ma c'era già grande affetto? No, diluviava e quindi sono venuti tutti sotto lo stand. Mi chiedevo se era il famoso stand della salsiccia no, quale si parlava. No, era molto più spartano. Scusate, ma io con la stanchezza le battute ovviamente non mi vengono. Una pagoda bianca e tante. Io le faccio lo stesso, ma cadono lì. Allora, mi dicevano che stamattina. Era una battutina piccolina. Giulio vi ha tirato in ballo sul cinema dicendovi queste cose, su facendovi leggere un brano di libro e facendo sentire, diciamo, un passaggio del vostro film preferito. Sì. Ariele mi diceva che il tuo era Il dittatore dello stato libero di Bananas. Però lo cambio per te. Bravo. Tommy degli Who. Mi sfondi a rendere le porte aperte. Tra l'altro, da quello che ti avevo detto in fuori onda già l'avevo cambiato, quindi se me lo chiedi tra un quarto d'ora te ne dico un altro. No, ma se uno cita The Who, per me è già va bene. Numero uno. Io a Verona c'ero quest'anno sotto il diluvio quando il povero Roger ha perso la voce. Ma lo cito sempre molto volentieri perché è un disco, è un film che ho scoperto più avanti negli anni, e quando l'ho scoperto mi ha sbarellato, quindi lo dico sempre volentieri in radio quando ho un lavoro in una radio che posso dirlo, perché ho sempre la speranza che qualcuno che ascolta dice ciao, vabbè, andiamo a vedere cosa dice questo qui, mi sento Tommy, e che è una cosa assolutamente da sentire. Tra l'altro, se ti cade l'occhio sullo schermo e vedi qual è il prossimo pezzo in scaletta, ah, dire. Allora siamo precisi. Allora dicelo, Rock FM è prostrata davanti a Riccardo Vianello, ne prendiamo atto e ce ne andiamo. C'è la maglietta bella, i pezzi che vuole lui. Vabbè, allora. E invece tu? Io ho scelto Marrakesh Express, che forse è comunque uno dei film che adoro per la storia. È nelle tue corde un è po'. È nelle mie corde, ma ho scelto un estratto che secondo me è fondamentale quando dicono siamo gli ultimi dei Mocani, saremo gli ultimi ad avere ricordi in bianco e nero. E un po' siccome mi sento parte di quella generazione che ha ricordi come tutte le persone che sono qui in questo studio in questo momento, così mi piaceva citare questa cosa. Tra l'altro tu appunto sei stato regista di The Movie in diverse edizioni. Se sbirci la scaletta troverai che abbiamo già fatto e My Night Shot, che probabilmente ricordi passavamo spesso. Un tuo cavallo di battaglia. E direi. Poi ce ne sono altri che insomma probabilmente ti ricorderai di aver già visto o già sentito in diverse edizioni. Abbiamo fatto una specie di The Best of. No, perdonami, ma ai tempi a te piaceva molto utilizzare la parola purpurri. Un purpurri. Cosa sono andato a beccare. Bravissimo. Ma senti, sono le 13:18. Perdonami, dovessi trovare un altro impiego, posso sfruttare purpurri perché mi piace tantissimo. Ammazza, me l'appunto e volentieri. Grazie, basta che mi citi una volta delle 10 minuti purpurri. Possiamo anche dividere la SIAE, poi facciamo 40-60. Allora, ovviamente. A sto punto, se proprio la vogliamo fare grossa, ce n'è un'altra. Nel senso, no, si parla di Rock FM The Movie, Riccardo è qui, ma vogliamo dire che questo uomo ha anche un'altra attività molto importante, di carattere letterario. Ma noi lo ricordiamo in Easy Rider, Mox ovviamente ha parlato di quella cosa lì. Ha accennato, sì, la presenza. Sì. Però vedi, da come dice accennato, voleva un po' di più. No. Mox, gentilmente, una monografia su Vianello, se fosse possibile, ce l'abbiamo? No, va bene. Mox si sta ingozzando di di salamino. Tra l'altro, se vedo mangiare Mox il salame, davvero vuol dire che è successo qualcosa. Qualcosa. No, avevamo fatto queste due puntate di Easy Rider in cui avevamo abbiamo parlato della biografia di Lemmy e di, una e di un libro sulla storia del punk che si chiama Please Kill, Please Me, Kill Me, che ho avuto l'onore di tradurre. La biografia di Lemmy, che non a caso si chiama La sottile linea bianca. Giustamente. Sì. Forse sarebbe stato meglio gialla per Lemmy. Un libro dedicato al tennis. Esatto. Questa è la più carina. Questa è molto carina. Molto bella. Tra l'altro noi abbiamo un aneddoto anche notturno. Io ricordo di aver conosciuto Lemmy in una delle sue apparizioni in radio. E come non abbiamo cercato, era un lunedì, abbiamo cercato in tutti i modi di portarlo in un locale aperto a Milano e non ne trovavamo. Evita di parlare del contest, Riccardo. No, abbiamo finito di mangiare panino con la salsiccia in Piazza Lima alle 3 di notte con i passanti che guardavano questo soggetto un po' particolare. Ricordiamo che lei mi anche in quell'occasione ovviamente sfoggiava i suoi meravigliosi stivali bianchi di pelle, pantalone stretto. Aveva una compilation di spille clamorosa e a un certo punto ci ha detto: venite, andiamo in camera mia in albergo, eravamo io e Claudia, ci siamo guardati un po' in faccia e dicendo: aia qua. Beh, Claudia un po' un pensierino ce l'aveva fatta, esatto. Diciamo. E lui in camera aveva una collezione di spille. Ah, perché spille. Siete andati qui. Certo. Certo. Spille e cimeli delle polizie segrete della Seconda Guerra Mondiale, più tirapugni con lama, più elmetto tedesco, che questo quando viaggia mette in valigia. Per portarsele dietro, che non si sa non mai. Non si sa mai se devo andare da qualche in parte. In 18 anni di storia, Rockefeller, sono passati davvero tanti artisti. Lemmy è l'unico che è entrato in studio e ha detto: allora ragazzi, se non arriva subito una bottiglia di Jack Daniels e il portacenere perché devo fumare durante l'intervista, non la facciamo l'intervista. E si fa così. L'elmetto ce l'aveva? Vuoi dirgli di no, Lemmy? No, l'elmetto no. Però lo stivale di pelle bianca, fidati. Strepitoso. Tra l'altro, ovviamente, portato rigorosamente fuori dai pantaloni. Fuori, sì, che lo metti dentro. Cioè, lo stivale lo sfoggi. Non sei mica dei parvenu. Signori, scusate, è tutto bellissimo, ma io manderei una canzone. Mandala. Va bene, dai. Allora, visto che torniamo al discorso Who. Esatto, visto che. No, perché sennò ci siamo allontanati troppo dal discorso Who. È vero. L'Ariele ha citato gli Who. Noi abbiamo scelto un pezzo clamoroso, forse uno dei loro, il loro pezzo che li rappresenta più di tutti, non dalla colonna sonora di Tommy, ma da Quadrofinia, perché il cinema parla di noi, parla delle nostre vite, parla della ribellione, parla dell'insofferenza giovanile, parla di tante cose. E in Quadrofinia c'era questo manifesto della gioventù che è My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Generation. Don't try and dig what we all say. Big sensation. My generation. I'm just talking about my what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Because we can get around. Things they do look awful. Cold. If I die before I get old. My My Generation, spero di crepare prima di invecchiare. Questa è la sintesi del Townsend pensiero quando scrive questo capolavoro assoluto. E lo dice un traduttore, tra l'altro, ragazzi. Esatto. E l'abbiamo scelta perché, come dicevamo, il cinema parla di noi, parla delle nostre vite, parla di tutti siamo stati adolescenti, tutti abbiamo avuto la sensazione di essere degli emarginati e degli esclusi. E Quattro Fini era un film esattamente su questo. Come giustamente diceva l'Ariele in uno sprazzo di Cristadorite, non è un pezzo originale per Quattro Fini, è un loro primo singolo ripescato per l'occasione. Credo che abbiamo una guest star al telefono. Certo, visto che la giornata è speciale, particolare, quella che stiamo vivendo con le voci e le persone che in questi 18 anni hanno collaborato e hanno voluto bene a Rock FM. Mi fa piacere condividere con Riccardo, visto che un po', cioè, queste nostre vite radiofoniche sono incrociate, ed è una delle voci storiche di Rock FM che è collegato con noi al telefono, ed è Ilario. Grazie Ilario. Ma non starete esagerando in tutto questo? Live uno... from Berry? No, live from Pesaro, amico. Ah, grandissimo. È rimasto un po' indietro, Vianello. Ho perso un paio di puntate. Mi ha perso un po', mi sa. Comunque emozionato molto, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentirete il batterista di una band di metallo. Questa è una citazione grandiosa, direi. E poi beh, devo dire, per me mi avete dato della voce stocca, ti ringrazio molto, anche se è stata una parentesi per quanto è intensa soltanto di 2 anni, che però mi è rimasta nel cuore in maniera direi definitiva. E infatti ho sempre pensato alla radio, qualche giorno l'ho anche ascoltata, dati gli ultimi eventi ho trovato una radio bellissima, e questa cosa ovviamente non fa che accrescere il rimpianto per quello che è, perché è il momento, ma adesso non volevo tirare il video. No, veramente è partito un momento lacrimuccia clamoroso, io sto cercando di fare una parte di The Movie, su di tono, spaccando le casse. Ve la stavate palleggiando veramente con grande destrezza, io però non riesco a nascondervi la mia particolare tristezza, vissuta a distanza, tra l'altro avrei dovuto essere lì con voi oggi. Questo è un vero peccato, in effetti, che si parlava di cambi pannolini pochi minuti fa. Bravo, bravo. Io sono coinvolto in una cosa assolutamente simile, e quindi è il motivo per cui non sono lì con voi. Rock FM The Movie, quanti ricordi? Sai che adesso, se la memoria non mi inganna, l'ho anche coniato io quel titolo lì. L'avevamo coniato, sì, credo in staff, adesso non so esattamente chi delle due menti, fra te e De Rio, ma sicuramente la farina del vostro sacco. Se non ricordo male, in una serata al Bar Guast, ma esiste ancora? Sai che l'abbiamo un po' perso di vista, ma ci informeremo, caro Ilario. Senti, un tuo aneddoto su The Movie te lo ricordi o è troppo lontano nella memoria? No, proprio non me lo ricordo, cioè ricordo che comunque è partito all'interno del mio programma. Sì, assolutamente. All'interno del mio programma. Assolutamente. Aneddoti non ne sovvengono, ma dal modo in cui l'hai detto probabilmente tu ne hai qualcuno. Vabbè, io su The Movie ne ho millanta che tutta notte canta, di quella fase lì in particolare faccio fatica. Io però un ricordo meraviglioso di Ilario che voglio condividere qua, sono sicuro che quando comincia a raccontare De Rio se lo ricorda. Noi non nel programma, ma nelle serate tipo al Factory, a fine serata al Factory si andava al baracchino da Walter. Te lo ricordi, Max? Grande, certo. Assolutamente. E io mi ricordo una scena meravigliosa in cui di bistecchine di cavallo. Bravo. Ragazzi. Mica voglio dire. E una sera Ilario è andato avanti a dire: ciao Walter, grazie Walter, mi fai un panino Walter, prego Walter. Dopo un'ora cosa ha detto? Guarda che io non sono Walter. Mi chiamo Franco. Quella scena è rimasta nei nostri cuori, veramente. È vero. Un uomo meraviglioso. Io devo dire che, visto che siamo in fase di ricordi e amarcord, ovviamente sono molto legato a Ilario perché è stata la prima persona che mi ha concesso di aprire il microfono a Rock FM. Infatti tu eri il principe, il gran visir di Castelsardo. Esatto. Ne vado ancora fiero di quel titolo che mi hai conferito qualche anno fa e te ne sono ancora eterno debitore. Allora, quello che ti posso dire io invece, Ilario, è che dal momento che tu sei la guest star di questo spicchio di programma, noi abbiamo scelto di invertire i pezzi in scaletta nella colonna sonora del programma, per cui manderemo un pezzo a te dedicato che sappiamo che ti è nel cuore, per chiudere il collegamento. Ma prima di chiudere il collegamento, dacci una roba di cinema, cioè un film della tua vita, il film della vita di Ilario, qual è? Il film della vita faccio veramente fatica a dirtelo perché ne scopro continuamente, e poi comunque non ho, non, è una definizione che non amo molto, perché comunque mi innamoro di vari film con una velocità, una facilità straordinaria. Allora quello che hai nel cuore, no, in questo momento? Aspetta, diciamo. Io darei una lista di noi, poi visto che sono su Rock FM mi piace ricordare un po' di film rock che ho visto negli ultimi anni e che mi sono piaciuti. Uno in particolare, Riccardo, che guardo abbastanza spesso e che è talmente stratificato nelle sue citazioni, alcune palesi, altre probabilmente più cesellate, è Velvet Goldmine. Bello, bello, che bello. Che guardo ancora adesso con una certa frequenza, una volta al mese più o meno. La storia del rapporto tra Iggy Pop e David Bowie negli anni ruggenti di Lost in London. Con quell'Iggy Pop che però in alcuni momenti è straordinariamente Kurt Cobain. Bello questo, la guarderò in quest'ottica, non l'avevo considerato. I corsi e ricorsi del rock and roll. Anche perché tra l'altro, come saprete, escono almeno un paio di film nei prossimi mesi, nei prossimi anni, probabilmente sulla dieta di Kurt Cobain, e secondo me hanno perso la grande occasione di farlo fare proprio al volto di Kurt, Iggy Pop, di Velvet Goldmine, che era, aiutatemi, l'interprete di Iggy Pop? Sì, era, non mi viene. Un vuoto di memoria pazzesco. Voglio dire, sì, nomi. Trainspotting, protagonista? Ewan McGregor, bravo Max. Ragazzi, profano, gli ho dato uno schiaffo veramente. Bravissimo. Ewan McGregor potrebbe essere un Kurt Cobain credibilissimo. È vero. Ci può stare, bravo. E vedi questo Ilario che sa sempre cosa dire anche sul cinema. Senti, tra l'altro, ovviamente, chiusa questa parentesi doverosa legata al cinema, visto che c'è Riccardo in questo momento, stiamo condividendo questa telefonata. Ovviamente Ilario è stato qui a Rock FM, continua comunque a essere in radio, quindi la radio è comunque un elemento fondamentale, una grande passione che continua. Max, collochiamo nel tempo la cosa, per gli ascoltatori più giovani. Certo, certo. Accadeva tra il 95 e il 98. Diciamo che un po' di acqua sotto i ponti, quasi, come si dice. Era geologica fa. Esatto. Beh, ma questo non toglie, io non ti nascondo che spesso mi è capitato, soprattutto in questo ultimo periodo in cui ovviamente i ricordi e le emozioni si sono davvero succeduti in maniera rapidissima, molte persone mi hanno citato il tuo nome ricordando appunto i trascorsi e soprattutto le levatacce, diciamolo, perché Ilario andavamo in onda in mattinata e si iniziava molto presto, tra l'altro. Sì, noi eravamo in onda tra le 8 e le 11. Esatto, preceduti ai tempi da Stefano Monticelli, che era, tra l'altro, ieri sera è venuto a trovarci e che anche lui ha portato un pezzo di Rock FM nel cuore e continua ad averci. E la prima edizione di The Movie era l'ultimo spicchio del venerdì, era l'ultima mezz'oretta del venerdì. Esattamente. Vero, ci lanciavamo sul weekend saltando su Riccardo Vianello. Esatto. E allora cavalchiamo il ricordo con questo omaggio a Ilario, pezzo tratto dalla colonna sonora di Singles, L'amore è un gioco. Secondo me puoi anche indovinare quale sarà il pezzo. Guarda, potrebbe essere State of Love and Trust. Bravo! Bingo! Senti, bingo! Se non ti disturbiamo troppo ti chiederei di rimanere ancora e ci salutiamo dopo il brano, Ilario. È possibile? Che puoi chiederti qualsiasi cosa. Va bene, allora intanto ci ascoltiamo i Pearl Jam, che è cosa gradita a tutti noi nello studio e anche a chi sta ascoltando Rock FM. State of Love and Trust, Pearl Jam, dalla colonna sonora di Singles. Stay on Love and Trust, dalla colonna sonora di Singles, L'amore è un gioco, in omaggio al nostro amico Ilario, grande appassionato della musica grunge, grande appassionato di Pearl Jam, lui stesso cantante di una cover band di Pearl Jam per un certo periodo di tempo. È vero Ilario, come va l'attività? Sei ancora ovviamente un appassionato di musica di Pearl Jam, non te lo chiedo neanche, ma l'attività live sei ancora parte del gruppo? L'attività live si è fermata, perché comunque... Sì, ma questo lo credo almeno da 3-4 anni ormai, perché era nata per gioco, un po' come Singles, L'amore è un gioco, che era il sottotitolo originale della versione italiana del film, era nato per gioco e credo sia stato molto molto bello finché è rimasto un gioco. Poi quando ha rischiato di diventare altro, direi che lì ha visto il suo tramonto, secondo me... Giustamente. Senti, non posso fare a meno di girarti una domanda che ti viene rivolta via SMS, come ti dicevo, tra l'altro si ricordano tutti di te, ci sono grandi parole, grandi saluti nei tuoi confronti, ma questa domanda di Ale è davvero scontata, vorrei quasi rispondere io, ma ti chiede, Ilario, ma sei ancora genuano? Assolutamente, ora più che mai. Anche dopo la dipartita di Borriello? Guarda, allora... di partita sportiva, pensa, ovviamente. Pensa che io ero arrivato a Rock FM l'anno in cui il Genoa ha giocato il suo ultimo campionato in Serie A. Battendo l'Inter in casa, lo ricordo molto bene. Battendo l'Inter a Milano. A Milano, esatto. Clamoroso a San Siro, direi. E quell'anno lì siamo andati in Serie B e siamo tornati in Serie A quest'anno. Quindi dopo tantissimo tempo, vedi, c'è anche quasi un cerchio che si chiude. Genoa più che mai, Borriello al Milan, ma credo che abbiamo fatto una plusvalenza clamorosa. Quindi da quel punto di vista ci sta. Senti, io stiamo vivendo davvero dei momenti e delle giornate molto intense, le emozioni si susseguono a raffica e ho deciso di farti fare un saluto da una persona che ci ha raggiunto in studio che credo riconoscerai. Uè, uomo con la coda. Questo non può che essere Roccino. Certo. È arrivato anche Roccio. Benvenuto e buongiorno. Grazie, Roccio. Ciao a tutti. Ciao Massimo. Sono andato a guardare le foto sul sito qualche tempo fa e Roccia è immarcescibile, immutabile. Guarda, a parte una spruzzata d'argento che però secondo me è anche finta perché ma quella ce l'abbiamo un po' tutti, mi sa. Io ormai, come tu ben sai, ho dovuto piegarmi e abbandonare la fede del capello. Io, fai conto, ho i capelli viola in questo momento, Ilario, ma era un motivo legato alla giornata che stiamo vivendo, ovviamente. Sai che in passato ti saresti autodisprezzato per questa cosa? Guarda, un po' lo sto facendo anche adesso perché ne sto parlando a un microfono e non è cosa bella. Ma va, sembra... In tema di capelli, sì. Io da qualche anno vado in giro pettinato come Fabio Treves. Con la coda, con la treccia. Con la coda trecciata, che non si capisce se l'abbia inventato io, se l'abbia inventato lui, è un nostro piccolo segreto. Tra l'altro l'ho incontrato un paio d'anni fa in un festival blues che io presento a Brindisi, immagina. Bene. A casa mia. Casa di Roccia. esatto, dalle parti di Roccia. Senti, ma allora a questo punto non vogliamo ricordare il famoso slogan... Sono qui in carne, ossa e capelli. Quello lo uso tuttora, ma. Ah, ecco, grande. Qui siamo veramente. È un marchio di garanzia, direi. A ripescare gli slogan storici, ragazzi, certo. Strepitose queste chicche che ci vengono fuori così. Io vedo fra l'altro la presenza di Roccia dall'altra parte del vetro, siccome comunque questo programma sarebbe ancora un filino The Movie. Roccia, un film della tua vita bello che ricordi e consigli ai nostri ascoltatori? Un casino. Ti becco di sorpresa. Me lo dici al prossimo spazio. Blade Runner. Vabbè, andiamo sul sicuro. Sul classico. Una volta all'anno lo vedo. Vabbè, questa è già una professione di fede, devo dire. Senti, nel non poter nascondere l'amarezza di non poter abbracciare Ilario in questo momento, che non è qui con noi fisicamente, ma è stato presente al telefono, ovviamente io ti ringrazio. Sono certo che le strade del rock and roll ci porteranno a rincrociarci in futuro. Magari prima di quanto si creda, chi può dirlo? Ah, va bene. Questa è una giornata speciale, una settimana che si conclude con il grande affetto delle persone che hanno voluto bene e che hanno vissuto l'esperienza di Rock FM. Questo era Ilario e noi lo ringraziamo. Grazie. Grazie a voi ragazzi, avete ridato una grandissima emozione, davvero. Grande Ilario! No, prestissimo Ilario, grazie. Grazie, sono ospite di Rock FM. Ciao Massimo Roccia, ciao a tutti, grazie. Grazie Ilario. Quindi Rock FM The Movie si è fregiato anche della partecipazione di uno di quelli che hanno assistito alla nascita del programma. Naturalmente tutti questi aneddoti, tutti questi amarcord, tutte queste cose farebbero venire la lacrimuccia. Noi vediamo degli sms che ci farebbero intristire, ma io ho scelto di fare una puntata di The Movie che spacca tutto, e quindi adesso noi ci mettiamo tutti insieme a urlare la nostra rabbia, la nostra incazzatura, la nostra gioia di essere insieme e tutto quanto con un pezzo tratto dalla colonna sonora di Pump Up the Volume. E quindi ragazzi, alziamo sto volume a palla e gridiamo insieme agli MC5: Kick out the jams, motherfucker! Out the Jam di MC5, Motherfucker. In realtà nella colonna sonora di Pump Up the Volume era una cover, ma noi abbiamo scelto di mettere l'originale perché diamo un tributo alla grande band Detroit. E a questo punto è l'ora di un altro ospite gradito e illustre, la nostra soprattutto illustre la nostra amatissima Claudia, che nella sua quindecennale carriera a Rock FM credo che abbia parlato di tante cose in vari termini garbati e non, forbiti e non, di cinema forse ti hanno fatto parlare pochissimo. Io non ho mai parlato di cinema a Rock FM, ultimamente tanto, perché ho visto un film meraviglioso che era Into the Wild. Bello. Ne ho parlato veramente un sacco. Parlavo della colonna sonora di Eddie Vedder. Colonna sonora azzeccata e perfetta per l'immagine e la fotografia del film. E poi, insomma, un film che ti lascia un po', che ti lascia un po' con l'amaro, no? Soprattutto per il finale, certo. Questa fotografia e anche il significato, insomma, di tutto quello che c'è dietro Into the Wild. Esci dal cinema e dici: basta, mollo tutto, prendo e parto. Per chi non l'avesse visto, Into the Wild è un film recentissimo di un ragazzo che decide di mollare tutto e andare a vivere in Alaska, nella foresta. Questa è una sfida impegnativa a tutto tondo e che gli lo obbliga delle scelte di vita, e il film estreme, è sì, perché assolutamente estreme, certo. E ho visto questo film, ti dico, mi sono commossa veramente un sacco e ho amato ti ripeto, l'ambientazione, la fotografia e la colonna sonora. Questo è stato l'ultimo film che ho visto che mi è piaciuto tantissimo. Ma diresti anche che è il tuo film della vita o c'è un altro film che porti nel cuore? Ma film della vita, non lo so, io in realtà sono una persona che ama i film, quelli un po' tristi. Eh beh, giustamente. Nel senso, sono una grandissima fan e adoro Marilyn Monroe, quindi, perché sono sempre stata affascinata da questo personaggio, dal mistero intorno a questo personaggio, molto sensuale da una parte, poi in realtà una zozzona per altri versi. Però un personaggio tragico, se ce n'è uno, misterioso, molto fragile. Lei, bella come il sole, in realtà è una persona fragilissima. Ho letto tantissimi libri, ho visto tutti i suoi film, quindi è un personaggio che ho amato un sacco. In realtà poi, ti ripeto, sono cresciuta, ma non tanto per la storia, attenzione, con un film che ritengo meraviglioso, che è Christiana F. e noi ragazzi dello Zoo di Berlino. Non tanto per la storia dei ragazzi, dei fattoni, attenzione. Mi piace però la Berlino, quella dei tempi, mi piace l'ambientazione, la Berlino molto scura, amo quella città, mi piace tantissimo la colonna sonora. La colonna sonora di quel film è splendida, cioè Brian Eno e David Bowie che mi fanno questa Varsavia che è di un... David Bowie, scusate, e questa Varsavia... tristissima, pesantissima, quindi io sono, amo le cose tristi. Tra l'altro, appunto, Eros di David Bowie è rimasta legata per anni alla visione di quel film e alle immagini di quel film. Ma sì, ma non solamente quella canzone, ma tante altre che sono legate al film, quando i ragazzi corrono, insomma c'è questo sottofondo meraviglioso, il concerto, e, ho amato tantissimo questo film, proprio perché io era il periodo che passavo molto tempo in Italia, poi andavo a Budapest, facevo Milano, Gallarate Budapest. Che già come salto culturale non è male. Però Budapest ai tempi io l'ho vissuta anche quando era nel periodo storico, insomma, del regime comunista, quindi per molti versi era una città molto scura e a livello architettonico mi ricordava un sacco Berlino. E quando ho visto questo film ho detto: ma è bellissimo, ho letto il libro penso 100 volte. Allora, visto che una delle funzioni di The Movie è anche consigliare piccoli film semi sconosciuti, cara Claudia, se vuoi io ti segnalo un film che si chiama Goodbye Lenin, visto che gli argomenti che hai tirato fuori, l'hai già visto? Film meraviglioso secondo me, e quindi lo consigliamo agli ascoltatori. Gubellieni è un film in cui in breve si cerca di c'è una signora che si sveglia dopo anni di coma nella Berlino Est ormai liberata post crollo del muro eccetera eccetera. Lei si era addormentata prima di tutto questo, i figli temono lo shock culturale, allora cercano di fare in modo che lei creda ancora che esista tutto quanto, il blocco, il muro eccetera eccetera, e quindi no, costruiscono una realtà fittizia attorno a questa povera mamma per non farle avere uno shock culturale che secondo loro potrebbe ucciderla. Ma Riccardo, perdonami, ma è l'emozione o hai perso completamente la voce? No, ho perso un po' la voce, sì, è anche un po' l'emozione, ma è la voce. Ti dico le due motivazioni: una, perché sei in una posizione sbagliata davanti al microfono, e due, perché stai urlando. È l'emozione. Ha perso, la carica. Ho perso un po' di tempo. Tra l'altro state parlando di signore, giustamente, comunque di parti femminile. Nel grande cinema, ovviamente grazie a Claudia, ma vi voglio annunciare che è arrivata un'altra amica che continuerà qui a Rock FM, torna dopo tantissimi anni, tra l'altro. Mamma mia, veramente. Con piacere l'ho rivista. E non è cambiata. Per nulla. Beh, insomma, lo scoprirete tra pochissimo. Questo era per segnalarvi una forma di radio di servizio, Riccardo, che credo che questo intervento No, ma fra l'altro, voglio dire, la portiamo da questa parte del vetro tra pochissimo per far parlare anche lei del cinema, che è un argomento trasversale. E allora magari ci ascoltiamo la canzone che hai scelto, della quale e volevo stupire però in chiusura, Riccardo, ancora una volta, perché alle superiori un giorno ci hanno portato al cinema e ti dico, eravamo in classe forse in 19, perché non era una classe numerosa, però siamo andati a vedere Il processo di Kafka. Ti dico che sono stata l'unica che non si è addormentata e ti dico che sono stata l'unica che è rimasta colpitissima, che ha amato quel film. Ma vedi, questo lato di Claudia è sottovalutato, assolutamente. Tu dovevi essere tirata dentro prima su questa roba del cinema. Vedi, quindi, magari in un'altra vita si riuscirà a fare. Se è una cosa scura. In un'altra radio sicuramente. Questo poco ma sicuro. Io sono molto attratta da queste, ho letto per anni. E Claudia, non sei dello psicologo comunque. No, però ad esempio, I fiori del male di Baudelaire è stato un libro che nella mia camera, sulla mia scrivania, c'è sempre stato. Ragazzi, dite la verità, Claudia che cita Baudelaire e Kafka nel suo intervento non se lo aspetta. valutato, mi vedevate sempre come questo sex symbol con sta quarta coppa C, quindi la mia intelligenza è passata in secondo piano. È tutta colpa nostra. Allora, in omaggio alle nostre signore del rock, quella che ha appena parlato e quella che parlerà tra poco, andiamo con un pezzo che a me sta particolarmente a cuore, è uno dei piccoli gioielli che abbiamo riportato più volte in Rock FM The Movie, e dalla colonna sonora di un grande film che si chiama Strange Days, un'attrice che oggi tutti sanno che è una cantante, ma allora lo sapevamo io, De Rio e pochi altri. E già l'apprezzavamo, tra l'altro. E con questa cover di PJ Harvey meravigliosa che si chiama I Can Hardly Wait, abbiamo Juliette Lewis. Abbiamo messo, ma che pezzo abbiamo messo? A queste parti di solito diciamo che musica, ragazzi, che musica, maestro. Una grande cover di PJ Harvey per introdurre allora l'ultimo segmento di questa, proprio nella storia della vita di questa trasmissione Rock FM The Movie. Mi piace stare in mezzo alle donne, Riccardo. Ragazzi, beato Between the Women, ed è con grande onore che accogliamo quindi la nostra ospite, alla quale passeremo l'ideale testimone di questo maratona che conclude la vita e la storia di questa grande emittente radio, ed è la nostra amica Odetta. Ciao! Come andiamo? Grande Odetta! Sto bene, grazie. Grazie tanto dell'invito, è un'emozione essere di nuovo qua. Anche perché io chiaramente non ho lasciato un gran segno alla radio, però è stato molto carino farmi tornare e farmi partecipare, sono molto emozionata. Vi dico subito che io ho impostato questa puntata di The Movie senza lacrimucce, cioè io potevo mettere come pezzo di chiusura, per un po' ho accarezzato l'idea di mettere Can't Find My Way Home però mi sembrava veramente da taglio della vena, voglio dire. Allora abbiamo fatto una scaletta impugnata invece sul picchiamo un po' di più, teniamo su tutto, parliamo allegramente di cinema. Ho detto, un tuo ricordo di cinema, un film che porti nel cuore o qualcosa che hai visto di recente che ti è piaciuto particolarmente? Guarda, probabilmente il film che ho visto più di recente che mi è piaciuto è La vita degli altri, che è un film, non so se avete visto, che parla della Stasi di tedesca, in cui c'è questo poliziotto, chiamiamolo così, che deve sorvegliare la vita di due personaggi, una coppia, lei attrice, lui un famoso scrittore, che sono sospettati di tramare o comunque di essere politicamente contro il regime tedesco all'epoca, insomma, qualche decennio fa. Colgo un filo di attualità in questo argomento, non so come dire, ma è veramente, in epoca di intercettazioni. È veramente un film molto intenso, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero un paio d'anni fa, insomma, quando era stato nominato. E non lo so, è un film che mi è piaciuto tantissimo, molto emozionante, pur nel rigore e la sobrietà dello stile tedesco. E invece come film, diciamo, musicali o con colonna sonora rock? Allora, ti dico i nomi, sono venuti fuori Tommy, per esempio, poco fa, sì, certo. È venuto fuori, sono venuti fuori i Blues Brothers, quindi un po' le pietre miliari, sì, i classiconi. Classiconi, ma guarda, vado controcorrente e segnalo un film che invece a me è piaciuto tanto, perché a me piacciono tanto i Beatles, e si parla di Across the Universe. Oh, bene. E questo musical che è uscito forse l'anno scorso, che ha avuto un grande successo, direi, soprattutto all'estero, e ha lanciato qualche attore molto molto interessante, che è praticamente una storia basata sia in Inghilterra che in America, che parla con le canzoni dei Beatles rifatte. Ed è veramente un musical molto molto intenso, dai colori caleidoscopici e una regia spettacolare, e lo consiglio. Da notare come alla mia destra si è improvvisamente calato il silenzio, perché la parola Beatles, sai, me la Claudia, non è esattamente il suo pane, diciamo così. No, non è vero, stavo approfittando stavo leggendo alcuni messaggi che sono arrivati riguardo alla cosa che ho detto prima, ma ci sono. Quindi a Beatles come siamo messi? Benino, bene ma non benissimo, dai, confessa, non sono buone. Benino, esatto, benino, dai, bene. Forse più Rolling Stones, lei. Sì, sì, un po', se devo scegliere, sì. Però è anche giusto proporre, capito, le antitesi e tutte le facce della medaglia del rock e del pop. Fra l'altro, visto che ancora una volta abbiamo detto ci piace segnalare qualche chicca, qualche film un po' disperso, a proposito di film musicali, quindi proprio di film prettamente musicali, al di là di quelli strafamosi che conoscono tutti, ci piace segnalare un piccolo film che io credo che tu conosca, perché se non sbaglio ne avevamo parlato qualche anno fa insieme. È un film ahimè introvabile, quindi o trovate il modo di reperirlo per vie traverse o non si becca, che si chiamava Godspell. Ah, certo! Perché adesso, chicca! Esatto, non l'ho tirata fuori a caso, perché quando Odette gira per i locali con l'America di Odette, secondo me uno o due pezzi nel set ce li infila dentro, o ricordo male? No, quello era un altro spettacolo che ho fatto in una parentesi di pazzia totale, in cui mi sono cimentata anche con i musical, perché poi a me piace cimentarmi con tutto. Ah, è vero, no, sto facendo confusione. Ti ricordi, sei anche venuto a vedere. Al Saloon di Bresso l'ho visto quello, me lo ricordo quando bene. Quando uscivo con un buon rosso sul palco. Bravissima, però c'era il pezzo di Godspell. Bravo, sì, Turn Back Old Man. Turn Back Old Man, esatto. Purtroppo è impossibile farvi sentire qualcosa, perché è veramente un materiale difficile da reperire, però vi dico, era un piccolo gioiellino con questa specie di allegoria sul Vangelo, tipo Godspell, è un richiamo alla parola Gospel, no? Che è il nome del Vangelo, però assolutamente allegro, simpatico e con molto sentimento dentro. Molto hippie, tra assolutamente. Se tieni conto che Jesus Christ Superstar stava per uscire, o comunque erano gli stessi anni, e definitivamente la fama di Jesus Christ ha superato quella di Gospel, anche se in America è un musical ancora riprodotto. Steven Schwartz è un grandissimo autore di musical ancora rinomato, che continua a scrivere, quindi sicuramente ha avuto il successo che meritava oltreoceano. Allora, il testimone verrà passato tra breve a Odette, che nel suo programma Weirdo ci riproporrà materiale a lei caro e ci parlerà di quello che vuole, sinceramente. Io, tornando